io sono assolutamente una sostenitrice della vita di coppia e della vita anche di casa. È vero che ti toglie delle cose, ma è vero che te ne regala tantissime altre. Se riesci a riderci sopra anche delle cose che certi giorni ti fanno ridere, certi giorni ti fanno disperare e imbestialire. Andiamo sempre e sempre comunque di corsa, e la vita di coppia e la vita in casa comunque dovrebbero essere, certe volte ci riesce ad essere un momento di pausa, di serenità. Sono pigra da morire, ma chi mi vede girare per Genova, la città dove vivo, che vivo praticamente vestita sempre in tuta e dicono quella passa la giornata in palestra. Invece è piuttosto che andare in palestra, ma ammazzo. No, no, assolutamente. Peraltro la vita di è vero comunque che gli uomini il giorno dopo, mio marito, il giorno del matrimonio pesava 70 kg, il giorno dopo 90.